L'Evangelo per radio. I risultati dell'amore. Vorrei iniziare oggi il mio dire, cari ascoltatori, con una leggenda interessante e alquanto istruttiva. Può darsi che già la conosciate, ma il motivo di questa rubrica non è tanto di dire sempre cose nuove, ma di ricordare delle cose preziose. Ebbene, in questa leggenda si narra che un mattino d'aprile, terso e luminoso, mentre la primavera ricamava meli e ciliegi nella gemma delicata della sua incantevole bellezza, una sfida improvvisa e strana avveniva fra i due principali amministratori della signora. Il vento e il sole si contendevano il monopolio della forza ed ognuno sosteneva con energia il proprio valore. Il vento, per dimostrare praticamente la sua superiorità, prese a soffiare a pieni polmoni investendo violentemente l'operato gentile della primavera. In un attimo i petali bianchi e rosa, afferrati dalla sua mano rabbiosa, presero a volteggiare in qua e in là come ebri, e poi sbattuti a terra. Finirono la loro breve vita pesti e irriconoscibili. Le punte dei pioppi, alte e flessuose, ad ogni raffica che pareva spezzarli, si incurvavano gemendo. Quale prova meschina offriva il vento nell'affermare la sua autorità intransigente? Da parte sua, il sole, allungando al massimo le sue braccia d'oro, cercava di abbracciare l'universo intero nella sua stretta benefattrice. Sotto la carezza tiepida delle sue dita magiche, i giardini esultavano di benessere, fiori e profumi inneggiavano alla sua bontà, nessuno sfuggiva al suo fascino potente. Dal più umile filo d'erba alla più maestosa quercia, era tutto un sussurro gioioso di ringraziamento. Osservando ciò, il vento fu sul punto di cedere il serto vincitore all'avversario, quando ad un tratto scorse nella pianura un viandante avvolto in un ampio mantello. La sua sete di dominio, che pareva essersi placata, a quella vista si risvegliò più precisa che mai e lanciò una seconda sfida al sole. Chi di noi due strapperà il mantello di dosso a quell'uomo? Questa volta sarò certo che è la mia forza che vincerà. E passato rapidamente in rassegna il suo esercito, manovrò alcuni nuvoloni scuri, che in pochi minuti mutarono l'aspetto gaio e luminoso del paesaggio. Scomparsa la luce, tutto assunse un tono torvo e minaccioso, perfettamente intonato all'azione che il vento stava per sferrare. «A noi, due viaggiatore!» gridò, lanciandosi con foga collerica verso il viandante, serrandolo in una morsa fredda. Il poveretto a quell'incontro si avvolse con maggior cura nella sua mantellina e, abbassando il capo, continuò a salire il sentiero della collina. Considerato l'effetto, il vento raddoppiò la forza delle sue raffiche, ma quale esito ottenne? Più il soffio gelido si accaniva sferzando l'uomo, più questi stringeva a sé il mantello protettore. Al colmo del furore, finì per gettarlo a terra e il fedele mantello difese ancora il suo possessore, rimanendo ben stretto a lui. Soltanto allora il vento si dichiarò vinto e si ritirò. Il sole, paziente e savio, comparve dietro le nuvole che si dileguavano mogie e mogie, e disse: «Ora tocca a me. Quello che la tua violenza non ha potuto ottenere, lo otterrò io con la mia dolcezza». Praise di gusto, mentre l'eco della sua voce buona correva attraverso i campi e le foreste. Poi, sicuro del fatto suo, sedette in cima alla collina su cui si inerpicava il viandante, aspettando tranquillamente. Nel frattempo, si prodigava a proiettare tutti intorno sguardi ardenti di luce e d'amore. La signora natura non era forse il centro delle sue cure, la sua preferita? Ed essa, rispondendo al suo affetto, riverberava il suo calore in tono crescente, favorendo il suo piano d'assalto. «Ah, come sto bene!» disse l'uomo, allentandosi il giro del mantello e scoprendosi un poco. Il sole, che lo seguiva da buon calcolatore, valutava il momento propizio e decisivo della scommessa. Infatti, poco dopo, «Che caldo!» esclamò finalmente l'uomo, togliendosi il mantello che in quella temperatura era diventato inutile. Il sole aveva vinto, con dolcezza e amore. L'allegoria del sole e del vento è ricca di ammaestramento sotto molti aspetti, ma desidero solo rilevare quello che concerne la dolcezza, lasciando naturalmente a voi ascoltatori le ulteriori considerazioni. La forza più potente non è quella che noi pensiamo. Abbiamo visto che il vento pensava di togliere il mantello al viaggiatore, e più usava violenza, più questo sentiva il bisogno di stringerlo a sé. Ma il sole, con la sua dolcezza, con il suo calore, gli fece volontariamente togliere quel peso inutile. Ebbene, anche la Sacra Scrittura ci parla in questo senso. La Bibbia ci dice che è l'amore che vince il male, non la violenza. E infatti leggiamo nei Proverbi, la risposta dolce acquieta il cruccio. E più di una volta l'Apostolo Paolo, parlando di mansuetudine, dice: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Egli sapeva che la mansuetudine è un'arma alquanto potente, perché le persone possono vedere Dio nell'uomo. E ancora la Bibbia afferma: innanzi a ogni cosa rivestitevi di carità intensa gli uni verso gli altri, perché la carità copre moltitudine di peccati. Sono profondamente convinto che non è mai troppo parlare di amore. Abbiamo sempre bisogno di parlare dell'amore, perché l'amore è stato ciò che ha spinto Dio a donare il suo figliolo. L'amore è quello che Dio usa ogni giorno nei nostri confronti. Egli ci ama, egli è paziente, egli è benigno. Ed è stato l'amore che ci ha attirati verso la croce. Se Dio si fosse mostrato come il vento impetuoso, violento, certamente nessuno di noi sarebbe stato attratto da Lui. Ma Egli appunto ha un carattere che attira l'uomo a sé, perché Egli è amore. Non per nulla Gesù un giorno disse: prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me che sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Ecco l'appello del Signore Gesù: imparate da me che sono mansueto ed umile di cuore. In un mondo come quello di oggi, dove domina la violenza sotto ogni aspetto, ebbene, vi è bisogno di mostrare l'amore, l'umiltà, la mansuetudine. Che Dio ti dia, caro ascoltatore, di vivere sempre nell'amore del Signore. Se vedi che non sei capace, se vedi che è una cosa impossibile, chiedi aiuto a Lui. Ed egli te lo darà, poiché è scritto che lui dà tutte le cose buone a coloro che gliele domandano con fede.